nei giardini arsi, sparsi, irti a marzo proibiti. Ti regalo un mazzo pazzo di rose al vento sperso, sparso, profumo terso. Sento ose del tuo seno sul mio cuore dolce arso. Io che di te fui pazzo, pazzo, pazzo. Sei una stella, la bella, l'unica che mi parla. Al ciel spensierato di marzo, del mazzo di rose, sei il profumo che fa sano anche un folle, mai sazio, che vorrebbe te. Io sole nel cuore che corre troppo con l'imago, rincorso dal tempo perso, perso, perso. Il nostro nubile profumo nel vento disperso. Te nomea di dolcezza sarà ultima parola, certezza nel vento dispersa. Torna come una stella e accarezza questa mia anima persa, persa, persa. Stella, stella, stella. Sarà, sarà, sarà la bella e la bestia, allontanati come amor proibiti nei giardini arsi di marzo. Ti regalo un mazzo pazzo di rosa al vento sparso. Sento osè del tuo seno sul cor mio dolce arso. Io che di te fui pazzo, pazzo, pazzo. Sei una stella, la bella, l'unica che mi parla. Al ciel spensierato di marzo, del mazzo di rose, sei il profumo mai sazio che fa sano anche un folle.